Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Ancora studenti, ricercatori e sindacati in piazza, non tutti, ieri contro la riforma Gelmini sull'università. Questo il racconto della giornata di Vanessa Colangiuli. Siamo capitani di vettura e non ne possiamo più. Fannullone sarai tu, e sarai tu, e fannullone sarai tu. Brunetta fannullone, ale ale ale. Non è l'unico coro intonato dai manifestanti scesi in piazza ieri a Roma contro la legge 133. Noi la crisi non la paghiamo, si sente ancora gridare per le strade, e su uno degli striscioni che colorano il corteo organizzato da CGIL e UIL c'è anche l'indicazione di un sito www.ricercacalpestata.it, ideato dai ricercatori di Bologna. Tre cortei tra studenti, ricercatori e docenti, un'onda anomala che anche senza CISL, SNALS e UGL, sfilatisi dopo la firma di un documento con le richieste del settore al ministro, ha richiamato persone da tutta Italia. Noi siamo qui per dire che bisogna credere nella ricerca. Chiediamo quindi al ministro Gelmini, a Brunetta, a tutto il governo Berlusconi di credere in noi, perché i soldi investiti nella ricerca sono soldi che come investire, puntare dei soldi su un cavallo vincente. Gli assenti sbagliano, dice il segretario della CGIL Epifani, che prosegue senza soldi e con i tagli non c'è riforma che tenga. Da altri punti della capitale, in Piazza Navona, continuano ad arrivare altri giovani. In migliaia pronunciano slogan contro il governo, anche dinanzi a Montecitorio. Non ci stanno a mollare. Davanti al Senato c'è chi lascia una bara come simbolo delle contestazioni, ma è una protesta pacifica, che vede divisi solo i sindacati. Sindacati dunque in piazza, dicevamo, ma non tutti, si sono sfilati dalla manifestazione SNALS e CISL, come avete sentito, perché ce lo spiega Antonio Marsiglia della CISL Scuola. Perché il ministro rispetto all'università ha dato un'apertura di mettere su dei tavoli tecnici per discutere e migliorare il decreto legge stesso che è stato fatto, il 180, e di istituire un tavolo tecnico per cercare di addivenire a un disegno di legge condiviso per la riforma universitaria. Lei capisce bene, la riforma universitaria insomma è un qualcosa di grosso, noi pensiamo che forse di arrivarci a un disegno di legge condiviso. Questa apertura noi l'abbiamo apprezzata e se la cogliamo non capisco poi il nesso di manifestare. Quali restano comunque i motivi di scontro? Quali sono i punti di questa riforma che proprio non vi piacciono? Il primo punto che noi siamo contrari è sempre quello dei tagli effettuati con il 133, perché pensiamo che le università con quei tagli non reggono, però pensiamo anche che attraverso la costruzione di una riforma fatta nel 2009 ci si possa anche arrivare ad allentare i tagli previsti dalla 133, perché il taglio maggiore compare nel 2010. Quindi lei dice c'è tempo per frenarli questi tagli in qualche modo? Certo, quantomeno è questo l'auspicio, ecco perché noi accettiamo il tavolo, perché con la riforma potrebbe pure venir meno questo taglio così forte nel 2010. Hanno lasciato ieri il campo agli studenti e anche ai rettori, che restano comunque critici, seppur con sfumature diverse, nei confronti del decreto Gelmini sull'università varato la settimana scorsa e che di fatto blocca le assunzioni per gli atenei con i conti in rosso. Francesco Baglio, rettore del Politecnico di Milano, uno degli atenei virtuosi, ci spiega cosa andrebbe rivisto nel provvedimento e quali sono invece i punti positivi. Beh, certamente il discorso delle spese del personale rispetto ai fondi statali, questo è la tipica cosa in cui oltretutto il sistema è particolarmente divaricato, perché andiamo da meno del 65% per certe università a più del 100%, quindi quello è una cosa inaccettabile e lì c'è stata proprio la mancanza di controllo da parte del Ministero. E su questo però la Gelmini è già in qualche modo intervenuta, perché ha sostanzialmente bloccato il turnover alle università che hanno superato. Sì, ma difatti gli interventi attuali della Gelmini vanno abbastanza in questa direzione. e dopodiché gli altri, sempre nell'ambito del decreto della Gelmini, il discorso della prolificazione di alcuni insegnamenti, cioè del discorso rapporti professori docenti, nel senso che se uno ha pochi studenti e se un professore ha pochi studenti e non fa ricerca, a questo punto bisognerebbe, questo è un problema più di Brunetta che della Gelmini, bisognerebbe anche poterlo penalizzare, e questo porterebbe una razionalizzazione anche del sistema, perché invece ci sono dei corsi che sono enormemente pieni di studenti con pochi professori. E questo c'è, anche questo nel decreto c'è. Sì, ecco, la terza cosa è quello di che invece lì è questo problema che riguarda più Tremonti, è un discorso che se fai tagli lineari a tutti, allora a questo punto mette in ginocchio anche le università che in fondo ancora si difendono e sono competitive sul mercato internazionale. Questo è evidente soprattutto nel momento in cui anche Germania, Francia, Spagna e Portogallo stanno facendo una politica invece di finanziamento alle università per diventare competitive. La manifestazione degli universitari ieri a Roma, a cui però hanno partecipato anche gli studenti delle superiori, in fondo l'università sta a cuore anche a loro, giustamente. Studenti che in questi giorni stanno occupando molte scuole. Arrivano però le prime denunce. Invasione di edifici, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. Questi reati ipotizzati dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'occupazione a Roma, appunto. 16 al momento gli studenti indagati. E anche molti presidi hanno deciso di intervenire. Il preside del liceo classico Mariotti di Perugia ha sospeso le gite scolastiche. Al liceo Albertelli di Roma invece la preside aveva minacciato il 5 in condotta, che quest'anno può anche voler dire la bocciatura, dunque particolarmente grave questa decisione. Sentiamola allora la preside Emilia Marano. L'occupazione dell'Albertelli è stata un po' particolare, in effetti. C'era stata un'assemblea regolare durante la quale nessuno aveva chiesto l'occupazione, erano per l'autogestione e sono stati una settimana a fare attività alternativa. Poi con un colpo di mano lunedì scorso hanno fatto dei collettivi e hanno tirato fuori l'occupazione e ci hanno cacciato lunedì pomeriggio. E allora cioè, sia io che i docenti ci siamo rimasti male. E così insomma i provvedimenti disciplinari sono questi. E però, quindi lei conferma la linea, chi ha occupato in maniera illegale no, avrà però poi al primo quadrimestre il 5 in condotta. Il primo trimestre, poi dopo ho riunito il collegio. E il collegio che dice? No, questa cosa ha avuto l'effetto che desideravo, in realtà i ragazzi mercoledì mi hanno consegnato il liceo, è durato solo due giorni l'occupazione durante, e quindi ho ottenuto questo, io in collegio ho detto lasciamo per del 5, vuol dire che insomma si dà una lezione con qualche sospensione a chi si è comportato male, perché sono stata trattata male anch'io, ci sono stati ragazzi che nei miei confronti hanno usato parole pesanti, quindi il collegio ha votato questa cosa, insomma si metterà il 6-7 in condotta irriducibile quel gruppetto che non ha voluto proprio trattare niente. Però 6 e non 5, quindi già per insomma... il momento, perché qualsiasi cosa, io sono una donna di scuola, non lo faccio né per propaganda politica né per altro motivo, lo faccio perché la scuola deve funzionare, il mio liceo deve funzionare, e quindi in quel momento ho ritenuto opportuno che servisse questo avvertimento, perché non se ne può più, non se ne poteva più, e quindi è giusta la manifestazione giovanile, è giusto manifestare il proprio dissenso, però non dimentichiamo che i liceali hanno l'obbligo della frequenza e quindi senza quello non si può essere promossi. Ed ora Genova per il consueto appuntamento annuale di Orienta Giovani. Marco Lignana. I ragazzi italiani scelgono licei e facoltà umanistiche e nel paese scoppia l'emergenza tecnico-scientifica. A dirlo è Confindustria, che nella 15ª edizione di Orienta Giovani ha cercato di spiegare agli studenti genovesi l'importanza di imparare formule, numeri e leggi di natura. I dati su scuola-università sono preoccupanti, come ha ricordato il presidente degli industriali, Emma Marcegaglia. Negli ultimi anni si sono dimezzate le iscrizioni a fisica, a chimica, a matematica e si sono ridotti di un quarto i diplomati tecnici, i periti industriali, e tutto questo avviene nello stesso momento in cui invece le imprese chiedono sempre di più lauree o diplomi di questo tipo. Tanto che noi abbiamo oggi in Italia un gap tra domanda e offerta di laureati e diplomati tecnici che è pari a 181.000 unità. Nel 2003-2004, per la prima volta, il numero degli iscritti ai licei ha superato quello degli istituti tecnici e professionali, ma forse il vento è cambiato. I dati sulle preiscrizioni dell'anno scolastico 2008-2009 segnalano un aumento di iscrizioni negli istituti, mentre da qualche anno le facoltà scientifiche vedono timidamente aumentare le immatricolazioni, dopo il minimo storico toccato nel 2001. Gianfelice Rocca, vicepresidente Confindustria per l'Education, è ottimista. L'Italia ormai ha il 40% di laureati sui giovani, cioè è un paese, uno dei più alti paesi dell'OCSE, quindi è cambiata moltissimo. Noi abbiamo il 10% dei ragazzi che sono oggi laureati in materie tecnico-scientifiche contro il 7% della Germania. E la prossima settimana, dal 20 al 22, alla Fiera di Verona, Job e Orienta 2008, la manifestazione dedicata all'orientamento, alla scuola, alla formazione e il lavoro. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo alle 12.45.